Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Burioni scrive su Twitter: se Tarro è virologo da Nobel, io sono Miss Italia. Su una cosa ha ragione, lui deve fare solo le passerelle come Miss Italia, ma senza aprire bocca. Questa signora è diventata enormemente famosa domenica perché ha fatto il seguente post. Mio bollettino del mattino, il nostro laboratorio ha sfornato esami tutta la notte, in continuazione arrivano campioni, a me sembra una follia. Si è scambiata un'infezione appena più seria di un'influenza per una pandemia letale, non è così. Due personaggi del vostro calibro, Burioni parli di Miss Italia, lei, sì, insomma, altra roba, mi sembra un po'... Si è difeso. Gianfranco Rotondi dice, il virologo Giulio Tarro, primario emerito del Cotugno, due volte candidato al Nobel, oggi scommette la sua reputazione dicendo che tra un mese, cioè lei, il coronavirus ci abbandonerà, come tutti i coronainfluenzali. Diciamo che questa è una costante a cui siamo abituati negli ultimi 4 mesi, che sta perdendo sempre più il suo appeal, è un format che ormai comincia a dare segni di cedimento, è come se gli autori del Grande Fratello si mettessero attorno a un tavolo e dicessero ma bisogna cambiare qualcosa perché ormai dopo 20 anni, 30 anni che facciamo sempre lo stesso spettacolo, forse il pubblico vuole delle varianti. Mi sono accorto ieri sera, ospiti di Bianca Berlinguer, oltre naturalmente che il solito Montanaro arruffato, c'erano due illustri rappresentanti della compagine di scienziati, di virologi, di infettivologi, di osservatori e scienziati del Covid-19 e davano un po' segni anche loro di cedimento. Ormai era sempre più chiara la collocazione nel bias emotivo degli ascoltatori. Corona dice sto per questa persona perché dice le cose veramente come vanno dette, qualcun altro magari pensava esattamente il contrario. Ora, la cosa mi piacerebbe capire questa mattina se questo è un fenomeno propriamente legato al nostro humus territoriale, che trasformiamo ogni complessità in una discussione da bar dello sport, quindi anche l'approccio scientifico alla pandemia è diventato bianchi contro neri, rossi contro verdi, gialli contro arancioni e via dicendo. E quindi nella percezione generale, nel pregiudizio generale, ogni telespettatore ormai ha chiaro e completo il suo obiettivo rispetto a quello che è accaduto, quello che ancora sta accadendo, quello che probabilmente potrebbe accadere, e si appoggia a quello con l'altro parere. Come fosse, e questo è paradossale e mi dà fastidio persino dirlo, la scelta di una sottocorrente di partito, o meglio ancora, in una idea religiosa con un'infinità di scelte, di possibilità, dico ma io scelgo quel raggruppamento di idee piuttosto che quell'altri, scelgo quella visione dell'aldilà piuttosto che quell'altra, perché mi ci trovo meglio, più vicino a me. La scienza però è un'altra cosa. Era una grande occasione per una istruzione seria e concreta, per un passaggio culturale che era fondamentale nel nostro paese per dare delle basi di cognizione di cosa sia il metodo scientifico e cosa sia la scienza. Secondo me, è un parere che posso contraddire, sovrapporre, sovrascrivere in questa ammissione, è stata un'occasione persa. Non saprei dire di chi è la responsabilità, se nella divulgazione, del metodo di divulgazione quelli che erano i dati scientifici, nel fatto che abbiamo formatizzato l'analisi scientifica del fenomeno e quindi è diventato un programma televisivo, o altre vicende che questa mattina ci aiuterà a capire meglio il professor Enrico Bucci. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Professor Enrico Bucci è un biochimico, è professore aggiunto alla Temple University di Filadelfia, è autore di Cattivi scienziati, la pandemia della mala scienza, ADD Editore, libro che esce oggi. È un libro in cui il professor Bucci rivisita quella che è la vera passione della sua vita, la passione per la scienza, proprio alla luce di questa nuova straordinaria occasione che abbiamo avuto per intendere, per capire quanto sia stato fondamentale il passaggio alla scienza rispetto a un livello di civilizzazione basato sulla superstizione, sull'immaginazione, sul pregiudizio. È d'accordo che questa occasione, professore, è stata giocata un po' male? Non voglio dire di chi sia la responsabilità, non voglio nemmeno pensarlo, magari lei mi aiuta, ma che sia stata giocata male. Era una grande occasione per ridare agli italiani una base e un fondamento cognizione cosa sia il metodo scientifico. Invece è diventata una grande occasione per scoprire quali sono i difetti della comunità scientifica, non della scienza o del metodo scientifico. Cioè è diventata un'occasione in cui siamo entrati in piena confidenza con una serie di problemi che esistono da tempo, ma che il mondo moderno, in particolare soprattutto il sistema con cui oggi si costruisce l'impresa scientifica, ha accentuato. Quindi i riti tra scienziati che ho sentito prima sono un fatto antico, molto ben nota, molto anche esemplare la lite che portò a una divisione in veri partiti del pubblico tra Leibniz e Newton, che cominciò sotterranea nel 1699, poi esplose in quindi non è un fenomeno, non è un format inventato dalla post televisione, qualcosa è sempre esistito. È una polarizzazione che è indotta da persone, da celebrità scientifiche, in questo caso del tempo, che erano Leibniz e Newton, e che poi viene utilizzata e cavalcata da altri che hanno interesse a sfruttare polarizzazione. Il caso clamoroso che è avvenuto durante questa pandemia è lo schierarsi di politici come Bolsonaro o Trump a favore di un farmaco contro altri, che con il risultato di produrre cattiva scienza in supporto di questo farmaco che è la clorochina, l'idrossiclorochina, e cattiva scienza a contrasto dell'uso di questo farmaco, che ha portato poi fino a delle ritrattazioni anche su riviste molto molto prestigiose. Cioè, il problema è la polarizzazione che nel nostro secolo è enormemente facilitata e accelerata dai media, ma che non è certo un fatto nuovo neanche all'interno della comunità scientifica. Diciamo che in una pandemia, in un sistema complesso come quello della modernità, in cui tanti elementi sono collegati tra loro, a cui anche l'elemento della comunicazione diventa un elemento fondante, anche dell'economia, anche dell'organizzazione sociale, anche della risposta politica, però questo fenomeno si è notevolmente accentuato e si è frammentato nelle possibilità che hanno rispetto i supporter ai tempi di Leibniz, le varie persone che osservano senza avere strumenti altrettanto potenti e raffinati di verifica che gli scienziati in lizza, attraverso i social, attraverso le supposizioni, gli amici degli amici, i falsi siti, le false notizie messe apposta. Diciamo che è interessante perché ci si presenta un piano con schemi tradizionali di movimento, ma con molte fattispecie sono mutate, sono accelerate secondo dei tempi. Proprio così, oggi le contrapposizioni nascono spesso sui social, anche le contrapposizioni tra scienziati che fanno comunicazione scientifica nascono sui social e addirittura sono tra virgolette incoraggiate dal pubblico che mette in contrapposizione sulla pagina di uno ciò che sono le opinioni dell'altro. Questo accade costantemente anche sulla mia di pagina, tanto per fare un esempio, e dopodiché lo show business, potremmo chiamarlo, dei media fiuta il nuovo spettacolo e quindi poi lo ripropone ingigantendolo ancora di più sulle televisioni e un po' anche sui giornali. Cioè la lotta gladiatoria, diciamo, dai tempi di Roma a oggi ha sempre scatenato l'adrenalina, e l'adrenalina è uno dei motori del business dello spettacolo. Oggi abbiamo visto cose molto divertenti, professore, scienziati che si creavano degli alias con nomi fittizi per lodarsi, avere un referente illustre in università straniere, quando in realtà ce l'abbiamo visto un po' tanto, altri sono buttati in politica. Quello è patologia del singolo che non estenderei agli scienziati in genere. Ci sono però dei tratti ricorrenti, cioè c'è la discussione accesa senza dati o prima che i dati siano disponibili per la valutazione della comunità scientifica, quindi propositori o opponenti di una certa idea cominciano a litigare e una volta che lo fanno in pubblico naturalmente si ancorano ancora di più alle posizioni che hanno espresso inizialmente, questo per un bias che si chiama bias di coerenza, e poi vanno avanti anche le schiere di questi che si affrontano poi in tutti i modi leciti ed illeciti. Il problema però è che questo spettacolo non è privo di conseguenze neppure sulla produzione scientifica, cioè poi questi ricercatori, questi scienziati cominciano anche a produrre cattiva scienza a supporto di quello che dicono, cioè partono da una tesi da dimostrare e fanno pubblicazioni che in qualche caso addirittura non erano solo errone, ma erano proprio fraudolente. E quando questo succede durante una pandemia, i problemi si amplificano. Si lasciano i morti sul campo. Allora, intanto si indirizza per esempio la politica dell'OMS in una direzione sbagliata, per esempio. Adesso lo commentiamo, poi intanto diamo il numero 800240024, vorrei che il pubblico intervenisse, desse il suo punto di vista, la sua percezione che ha avuto dell'applicazione del metodo scientifico, del racconto della scienza, come ha vissuto questo supporto, si aspettava magari un maggior rigore o si aspettava certezze che si sa che sono sempre suscettibili ai nuovi approfondimenti. Ci piacerebbe anche capire quale idea si è fatto rispetto a quello che sapeva prima da questa grande esplosione del dato scientifico. Quindi 800240024. Intanto però io vorrei col professor Bucci mettere dei paletti, cioè i punti fondamentali. Nel suo libro li spiega quali sono i sintomi della malattia, della malascienza. Faccio l'esempio, capita nel campo della divulgazione scientifica, e in questi ultimi mesi ci siamo tutti un po' improvvisati, che si dia spazio a un professore dicendo presenta un'ultima ricerca, un ultimo studio. Si è un po' affievolito il termine di rigore, di pubblicazione scientifica, di dato consolidato, di ricerca, di studio, perché io vedo ogni giorno presentare un'infinità di ricerche, ma sono tutte passate veramente al vaglio della comunità scientifica? Sono dati che possono meritare il timbro di essere un dato scientifico, o oggi con molta leggerezza diamo il termine un nuovo studio, una nuova ricerca, cose che in realtà sono solo delle ipotesi, delle illazioni o delle chiacchiere fatte in famiglia? Dunque, allora, ci sono due piani. Uno generale, e qui basta ricordare le parole di Veronesi che una volta ebbe a dire: se leggessimo i quotidiani ogni giorno avremmo sconfitto il cancro. Quindi c'è la tendenza, ovviamente, ed è una tendenza che, badate bene, comincia dai ricercatori e dagli uffici stampa dell'università, non è una colpa esclusiva dei giornalisti, che è quella di presentare come, di fare una scienza sensazionalistica, Quindi ci si Però anche il giornalista ha la sua responsabilità, perché sa benissimo che se ti chiama l'ufficio stampa e ti chiede quella che viene chiamata una marchetta, come tale al limite la puoi presentare o devi dire si chiacchiera di questo, ma non dire è un dato scientifico. No, ma soprattutto quando a me chiamano da altre parti del mondo o negli Stati Uniti o capitato in Messico, in vari paesi del mondo, quello che io dico al giornalista viene non preso così com'è, ma verificato contro le fonti, cosa che i giornalisti italiani forse non hanno più il modo o il tempo di fare, perché molto spesso si limitano a rilanciare, cioè ritengono che la loro missione sia semplicemente quella di riferire che qualcuno ha detto, non di verificare ciò che è stato detto, il contenuto, cioè passacarte degli uffici detto. Stampa, ecco, questo è il fatto. O dei ricercatori, politici o di chiunque altro, cioè la notizia in Italia viene vista come la semplice notizia di qualcosa che è stato detto. Non ecco, la ma il ricercatore che vantaggio ha, professore? Perché io posso dire, io e 5 amici abbiamo fatto uno studio e abbiamo scoperto, che ne so, la pillola della felicità, dico una stupidaggine qualsiasi. Trovo un po' di amici che mi parlano, un nuovo studio, una nuova ricerca, il professore ha scoperto, il professor Nicoletti, la pillola della felicità. Ma poi all'atto pratico, io non potrò mai farne nessun uso pratico e concreto, vale solo per aumentare il proprio prestigio, diventare una star. No, diciamo, a parte la soddisfazione... Qual è il vantaggio concreto che poi ha un ricercatore? Il vantaggio concreto è l'aumento di quelle che sono le citazioni nella letteratura scientifica. Cioè è stato pubblicato, ormai studiato, che io per esempio, faccio un esempio banale, se paragono lavori presi alla stessa rivista, che sono stati, diciamo, la cui pubblicazione è stata comunicata su Twitter, rispetto a lavori per i quali non è avvenuto, i primi prendono una media di 4 volte le citazioni dei secondi. Ora, le citazioni sono utilizzate per la progressione di carriera e per ottenere i finanziamenti nella ricerca. Cioè le citazioni nel perverso sistema di valutazione attuale della ricerca hanno sostituito la lettura dei lavori e il giudizio qualitativo. Ma in tutto il mondo avviene questo, professore, o è un fenomeno italiano? No, questo è un fenomeno in tutto il mondo, con estremizzazioni in certi paesi come l'Italia, dove esiste un'agenzia dedicata alla bibliometria di Stato che si chiama ANVUR. In generale avviene in tutti i paesi in modo più o meno accentuato. Ci fermiamo solo un istante, professor Bucci, perché questo è un punto fondamentale, rimette in discussione tutto il senso di evidenza scientifica. Se l'evidenza scientifica è basata su alcune fonti, che sono alcune fonti accreditate, se le fonti si aumentano, prolificano, diventa fonte anche il messaggio su Twitter, finisce il concetto di dire questa è un dato scientifico che ha una sua solidità. Ci fermiamo un istante, riprendiamo tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. L'idea che mi è molto piaciuta, Ilaria, è che parla ai cuori, perché invece la scienza viene considerata una cosa fredda e lontana da noi. Perché invece la scienza deve parlare ai nostri sentimenti? Perché noi scienziati siamo persone come voi, esattamente come voi. Devo dire che non si può sentire. Professor Bucci, lei parla ai cuori. Ma guardi, questa non è una domanda, come dire, semplice a cui rispondere, perché non conosco il cuore di tutte le persone che incontro, e onestamente non è una conversazione interessante con un se facesse il cardiologo posso capirlo, ma ecco, fa un altro mestiere. No, l'unica cosa volevo correggere, solo l'affermazione finale di prima, non è che Twitter è diventata una fonte, Twitter è diventato il modo di attirare l'attenzione sui propri articoli scientifici. E quindi, quindi che ha un valore, è come dire, valutare, è valuta corrente. Uno mi fa esatto. Tweet, io posso avere dei vantaggi di carriera. Esattamente, è proprio esattamente così. Cioè, nel senso, la trasformazione della valutazione, da una valutazione dei contenuti di quello che ho pubblicato, a una valutazione di quanto quello che ho pubblicato è diffuso, è conosciuto ed è quindi citato, ha trasformato la scienza, diciamo, passando da una valutazione del contenuto a una valutazione dell'audience di un risultato, ecco, diciamo così. È come se adesso ecco che allora, adesso capisco lo scienziato influencer, io lo attribuivo certo. A una sorta di debolezza umana, dico beh sai, sono uomini alla fine, no, in realtà stanno lavorando per loro a tutti gli effetti. Ma sa, guardi, una delle voci che si trova spesso nei bandi europei, quelli a cui si partecipa per ottenere finanziamenti anche ingenti di ricerca, e per la verità anche negli Stati Uniti, riguarda la disseminazione sui social dei risultati della ricerca. Quindi, indipendentemente, diciamo, se anche gente ti tira le uova a marcia in faccia, per lo stesso modo ha un valore. Entrano in merito a cos'è la disseminazione. La cosa interessante è che la citazione non viene neanche distinta in negativo o in positivo. Cioè, se io ricevo una citazione per un articolo erroneo, una citazione da un altro articolo che critica quindi il mio, questa citazione va comunque a mio vantaggio. Adesso capisco la moltiplicazione degli alias, lei potrebbe fare Ricus Buccius, che sì. Tutti i giorni la loda, comunque sia, è un punteggio in più, un domani va a chiedere un contributo europeo. Attira, diciamo, dice, guarda, che attira l'attenzione su di me, magari non ci ho pensato, ma l'effetto finale è quello di attirare l'attenzione su di me. Cioè, se io riesco ad... ecco, le faccio un esempio. Io ho scritto alcuni, diciamo, partecipato con altri autori ad alcuni studi che poi sono stati pubblicati quest'anno sul Covid. Uno di questi studi, un singolo di questi studi, ha avuto un numero enorme rispetto alla mia media, diciamo, di citazioni, senza che ci sia un motivo particolare legato alla qualità. In realtà io sono poi andato a vedere chi è che citava questo articolo scientifico, che quindi a me direttamente dà dei vantaggi in termini di carriera, solo che è veramente un'anomalia, cioè non si spiega come ha fatto a guadagnare così tante citazioni in così poco tempo. E il punto è che questo studio è stato, siccome c'erano degli autori indiani, coautori indiani, è finito nel, diciamo, circo mediatico indiano, diciamo così, quindi è diventato noto e quindi tutti hanno cominciato a citarlo, ed incluso pseudoscienziati, cioè gente che ha scritto su riviste farlocche, ha scritto che il coronavirus è il virus dell'influenza, cioè che il Covid è causato dal virus dell'influenza, per poi sostenere, diciamo, un articolo che sosteneva altre sciocchezze sulla vitamina D. Quindi proprio i pseudoscienziati che di solito io combatto, invece citano uno dei miei articoli facendolo crescere enormemente. Cioè io sto traendo vantaggio da qualcuno che non sa assolutamente neanche quello che scrive, che però cita il mio articolo, a sproposito. Fantastico, ricordo il professor Enrico Bucci, che è un biochimico, professore aggiunto alla Temple University di Filadelfia, ha scritto Cattivi scienziati, la pandemia della malascienza, di editore, è il libro da cui sto traendo le domande che gli sto facendo in questo momento. Sentiamo qualche ascoltatore. Roberto, provincia di Ancona. Buongiorno a tutti. Ma io ho una convinzione che mi sono fatto in tutti questi anni, un po' in generale, c'è un problema trasversale assolutamente a tutta la nostra società, che è quella della mancanza di etica. Mancanza di etica che poi porta lo scienziato a scrivere articoli anche senza avere argomenti validi per sostenerli, il giornalista a pubblicare la notizia anche se non è una notizia da pubblicare, ed è tutto di conseguenza. Questo secondo me è un po' il problema della società odierna, che porta problemi di magistratura. Quindi lei dice, ma quello che un po' ci sta dicendo il professor Bucci, si è un po' allentato la catena di rigore attorno al dato scientifico, e un po' si è anche moltiplicato la maniera di diffondere dei dati, e quindi il risultato è questo. Poi risponderà a tutti il professor Bucci. Faccio un po' di telefonate e poi dopo vediamo le risposte. Vera, provincia di Como. Mancanza di etica. Lei, Vera, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, mancanza di etica, ma anche una grande ignoranza. L'ignoranza genera mostri. Purtroppo abbiamo una grande ignoranza nel pubblico, nella gente. Ignoranza a volte benevola, mancanza di capacità di approfondire gli argomenti, di riuscire a ragionare su quello che si legge. Analfabetismo funzionale viene definito. Questo qua lei penso che alluda. Non che non sappiano leggere e scrivere, ma non sanno interpretare. Non sanno capire, certo, e su questo ci marciano in tanti. Io ho avuto la fortuna di seguire ieri un webinar dell'Accademia dei Lincei, al quale partecipava anche il professor Quindi Bucci, lei è un medico, penso. Sì, sono un medico della provincia di Como. E che è stato interessantissimo, fantastico, bellissimo, che consiglio a tutti di andare a cercare. Quello fatto da Napoli, dice lei? No, è stato fatto dalla Società Clinica Italiana, lo si trova online sulla pagina Facebook per esempio di questa società, dove scienziati e ricercatori parlavano delle difficoltà ancora presenti nel riuscire a capire con cosa si ha a che fare e come contrastarlo. Il problema è che anche manca una centrale di comando, un'unità nazionale, sovranazionale, che tenga le fila e che regga alta l'importanza della allora, dottoressa, della, molto chiaro, aggiungo alle domande che poi adesso cui risponderà il professor Bucci. La prima dice mancanza di etico, seconda mancanza di un'unità di controllo centrale, un organismo super partes. Tommaso, provincia di Grosseto. Salve, buongiorno. Senta, no, io volevo, a parte sono d'accordissimo con ciò che hanno detto i due ascoltatori che mi hanno preceduto, io studio scienza dell'educazione e della formazione all'Università di Firenze, sì. Quindi mi occupo di formazione, e secondo me il problema è molto più grave della pandemia in se stessa, perché questo discutere di scienza davanti a un pubblico impreparato crea un effetto dove chiunque può parlare di qualunque cosa, e questo a mio avviso è molto molto pericoloso, sia per quanto riguarda i nostri giovani, che sono giovane anch'io, però sia per quanto riguarda i nostri giovani che si sentono in diritto di aprire bocca su cose della quale non sanno assolutamente niente, sia poi questo dà la possibilità ai politici o chi per loro o chi fa divulgazione di strumentalizzare delle informazioni non corrette. Quindi il terzo quesito, poi ci fermiamo un istante e posso Gucci rispondere, è proprio questo, cioè il problema è proprio nella mediazione, è il punto di connessione tra il dibattito che si svolge nel circolo scientifico e le persone che lo seguono, che come ci ha detto però il professor Gucci non è un seguirlo passivo, dal movimento, dall'alone, dall'ombra digitale che lasciano anche i seguaci, i supporter, gli oppositori, in realtà poi chi sta dentro il circolo scientifico ha i suoi vantaggi. Ci fermiamo un istante. Siamo nella testa di un professionista. A sinistra, il problema dell'acquisto di un nuovo veicolo. Ma è meglio aspettare ancora. A questo punto ci pensiamo dopo l'estate. A destra, guarda che i contributi scadevano il 31 agosto. Cosa? No! Non sempre si può tornare indietro. A luglio e agosto, Volkswagen Veicoli Commerciali offre 6 milioni di euro di contributi sui veicoli in pronta consegna. Se te li fai sfuggire, perdi fino a 6.000 euro di vantaggi su Transporter e il service plan incluso se attivi il leasing. Info su volkswagenveicolicommerciali.it. Melog 800240024, molto velocemente elenco la squadra numerosa grazie a cui vado in onda: da Milano Valeria Bernardi, Filippo Aureggi, Anita Panizza, da Roma Alessandro Chiappini, Fabrizio Intonti. Per mandare in onda uno serve tutta questa gente. Sì, è fondamentale, se non andrà in onda. Veloce, Marino, cosa deve dire? Provincia di Arezzo, molto veloce. Buongiorno. Allora, da quando è successo che di questo virus? Hanno parlato mille scienziati. Io che ho sentito parlare a volte sia la dottoressa Gatti che Montanari, sì. Che Montanari ha delle idee basate sui suoi lavori. Totalmente rigettato dalla comunità scientifica, non considerato uno scienziato. Quindi lei sta esattamente, non la voglio censurare, però la chiamo come esempio. Grazie. Sì, ma sa benissimo di cosa parla. Lei è convinto che queste persone, che non hanno in realtà uno spessore scientifico riconosciuto, siano degli scienziati incompresi, continuano a fare le loro ricerche per conto loro, e lei in questo momento pensa di fare un'operazione politica importante dicendo che sono censurati. Semplicemente non nominate, non hanno nulla da dire di interessante, che sia oggettivamente interessante. Possono avere i loro seguaci, ma come ce li ha Padre Pio, Mamma Ebe e tanta altra gente, ma non c'ha nulla a che fare con la scienza. Questo è il mio punto di vista. Poi lei rimane la sua opinione, che io rispetto. Non li chiamo perché non c'è nulla di interessante che abbiano detto di comune interesse, questo per fare, non perché li censuri, non sono censurati, hanno un'infinità di supporter. Marco, provincia di Reggio Emilia. Nicoletti, buongiorno, grazie di poter intervenire. Volevo dire due cose brevemente. Io sono un medico. La prima cosa è questa, che dal punto di vista scientifico il valore dell'opinione della singola persona, sia esso anche uno scienziato, è bassissima. Nel senso che le evidenze scientifiche si dispongono in una piramide al cui apice ci sono degli studi che hanno delle caratteristiche ben particolari e sono quelle più evidenti, che sono gli studi cosiddetti randomizzati in doppio cieco. Le opinioni invece delle personali, degli scienziati, in questa piramide stanno all'evidenza minore. Quindi il mass media si focalizzano sul singolo scienziato creando in un'aspettativa nell'opinione pubblica che lui possa dire la verità, ma la comunità scientifica non riconosce questo come metodo scientifico. Lei, dottore, dice una cosa sacrosanta, ma esattamente quello che nel libro del professor Rico Bucci, che ricordo che Attivi scienziati, la pandemia della malascienza, che esce oggi, si dice esattamente questo, almeno così l'ho interpretato io, adesso il professor Bucci dirà se ho interpretato male. Sembra che questo sistema rigoroso, che lei ha perfettamente sintetizzato, in qualche maniera si sia un po' come diluito. Esistono altre forme che danno perlomeno l'impressione che ci sia evidenza scientifica in qualcosa che non lo è. L'ascoltatore non ha voluto censurare, mi cita due persone che da anni parlano, fanno ricerche, studiano varie cose, però la comunità scientifica ha sempre detto quello che dicono non ha nessun valore, nessun riscontro. Professor Bucci. Allora, partirei, diciamo, dalla questione della mancanza di etica, cioè della perdita di etica nella nostra società. Per quello che riguarda la comunità scientifica, in realtà noi abbiamo creato un meccanismo che premia chi comunica di più. Quindi significa dire, noi abbiamo Da quando è accaduto questo? Mi scusi, professore, da quando ha cominciato a accadere questo fenomeno? Grosso modo, in Italia dal 2011, nel mondo da un po' prima, dal 2000, diciamo, è diventato più significativo. Quindi abbiamo creato un meccanismo in cui chi pubblica di più e viene citato di più viene premiato, va avanti, fa carriera e riceve finanziamenti. Con qualunque mezzo, questo significa dire che se io frodo e produco 100 pubblicazioni, andrò avanti rispetto allo scienziato onesto che ne ha prodotte due ed importanti. Ma quello che ha detto la seconda ascoltatrice, la dottoressa, sì, che era stata al webinar, esiste un comitato che pone freno a questo? Ormai ci siamo persi ogni speranza che si ritorni a un rigore scientifico? Non abbiamo assolutamente perso ogni speranza, perché fortunatamente la comunità scientifica è fatta di persone che sono poi anche curiose di vedere se i risultati degli altri reggono. Non esiste e non può esistere, tra virgolette, un comitato per la verità scientifica, per la semplice ragione che una delle condizioni fondamentali perché la scienza progredisca è che si manifestino delle idee che sono avversate dal resto della comunità scientifica. Naturalmente poi queste idee avversate devono essere provate e la fatica di provarle deve essere enorme, cioè deve essere faticosissimo provare una cosa che va contro il consenso scientifico, perché io devo battere le migliaia di evidenze che si sono accumulate prima di poter dire che le mie evidenze pesano di più. E così deve essere, cioè il dibattito scientifico deve rimanere libero, non ci può essere, tra virgolette, un ente certificatore. Anzi, questo ruolo se lo sono arrogate le riviste, dicendo sostanzialmente in maniera indiretta che ciò che è pubblicato è ciò che conta. In realtà questo era vero quando le riviste pubblicavano, dopo la discussione scientifica nelle accademie scientifiche, erano dei semplici rendiconti. Invece oggi pubblicano dopo che solo due persone, che non si sa chi sono, quindi possono avere qualunque competenza, hanno deciso che l'articolo andava pubblicato. Quindi quando oggi qualcosa viene pubblicato su un articolo, comincia l'analisi dei dati da parte della comunità scientifica, invece che essere il culmine dell'analisi. Diciamo, solo il gruppo che ha prodotto quei risultati. Questo è un po' l'equivoco che si crea molte volte, questo senso di ammirazione per i cosiddetti scienziati alternativi, quelli che non sono capiti, quelli che sono osteggiati, quelli che non fanno gli interessi di Big Pharma, come nel caso dell'ascoltatore di prima, che non voglio mortificare, però è esattamente così, o sbaglio? No, è esattamente così, cioè qui bisogna capire che la pubblicazione scientifica è il momento in cui la comunità scientifica può cominciare nel suo complesso a discutere dei dati che sono stati prodotti da qualcuno. E tra le altre cose, una delle distorsioni che sta avvenendo in questo periodo è che troppo spesso si va a discutere senza presentare i dati, cioè prima che i dati siano pubblicati e senza che uno possa giudicare della solidità di ciò che viene detto. Addirittura adesso sentiamo persone che si appellano al senso clinico, cioè una cosa eterea, diciamo, che si sente ormai dai tempi di Galeno, ripetuta così in contrapposizione alla scienza. È clinicamente scomparso, questo penso che lei facesse allusione, non è clinicamente inattivo. Grazie professor Bucci, è stato un piacere e per me è stato illuminante, mi ha chiarito alcuni punti che ancora per me erano confusi e spero che ancor più l'abbia fatto con gli ascoltatori. Alla prossima.